get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. E buonasera, buonasera a tutte e benvenute alla nostra 336esima trasmissione. Questa sera vogliamo ricominciare il nuovo anno proponendo a voi che ci ascoltate un nuovo capitolo della nostra ormai storica, scusate il bisticcio, rubrica Donne e Storia, all'interno della quale ricordiamo, come ben sapete, narriamo le vite di tutte quelle donne che attraverso le loro imprese, il loro sapere, le loro gesta hanno contribuito al progresso e alla cultura. Eppure, nonostante questo ruolo determinante che hanno ricoperto e il contributo dato nel fare la storia del mondo, queste donne sono state quasi completamente cancellate dai libri di storia ed è stato negato loro di fatto il riconoscimento che al contrario sarebbe stato dovuto. Di queste donne poco o niente è rimasto e altrettanto poco si racconta. Per ricercarle, conoscerle meglio, bisogna andare a spulciare nei posti più impensati. E soprattutto guarda caso bisogna indagare sul lavoro di ricerca fatto da altre donne. Grazie a molte ricercatrici e qualche volta a qualche uomo illuminato, per la verità possiamo saperne qualcosa di più di loro e tentare di ridurre le distanze. In ogni caso riusciamo benissimo ad immaginare le difficoltà quotidiane che queste donne hanno dovuto superare, perché sappiamo bene che anche oggi queste difficoltà sono presenti, quindi anche se forse magari sono meglio mascherate rispetto a situazioni precedenti. E le nostre società, così come sono la nostra, ma anche le altre, così come sono appunto impostate, continuano a dettare le regole rigide del patriarcato. E quindi diventa quasi logico cancellare e occultare le anomalie, e le anomalie sono tutte quelle donne che hanno contribuito a scrivere pezzi importanti della letteratura, della scienza, della medicina, della politica, sono state cancellate con la stessa facilità con la quale purtroppo sempre più spesso le donne vengono cancellate dalla vita dei loro compagni, uccise dagli amanti, dai mariti, dai fratelli, dai padri. La cancellazione sistematica avviene in molti ambiti. Spesso non vengono considerate, lo abbiamo detto tante volte, come persone, ma semplicemente come degli oggetti di cui si può disporre a proprio piacimento, oggetti da usare, da violare, da sfruttare, donne maltrattate. Una volta finito l'interesse, gettate via. Sono oggetti su cui si ritiene di avere il potere di vita e di morte. Quindi perché questa rubrica, la rubrica Donne Storie? Proprio perché il nostro modo per evitare la cancellazione, il tentativo di mantenere vivo il ricordo di queste donne ricollocandole all'interno della storia. E passare dalla negazione al riconoscimento, quindi ridisegnare gli schemi dell'immaginario collettivo, mettere in discussione i criteri dati, ridistribuire la forza, il sapere, l'intelligenza e il potere, rivendicando quel salto di qualità che spetta loro. E che spetta anche a noi, che passiamo in questo modo da spettatrici a protagoniste. In questa rubrica negli anni abbiamo parlato di donne come Trotula, Jacoba, le Dame di Salerno, Amelia Earhart, Louise Leib, Sophie Germain, Artemisia Gentileschi, Eleanor Roosevelt, Hortensia, Rose Bonheur, tantissime altre. Oggi abbiamo deciso di parlare di Hatshepsut, la donna faraona d'Egitto. Just a little bit. Allora, come dicevamo nella prefazione, abbiamo deciso di ripartire per questa prima trasmissione del 2017 con la rubrica di Donne e Storia. Stasera parleremo dell'Antico Egitto e precisamente di Hatshepsut. Personalmente conoscevo già la sua storia, ma nel leggere di lei e su di lei ho dovuto spesso accantonare molti luoghi comuni che accompagnavano le descrizioni della sua vita e delle sue opere. Quando quest'anno ho sentito della pubblicazione di un libro che, a differenza degli altri letti in precedenza, è stato realizzato da tre donne, capirete che è scattato subito automatico il mio interesse. Tralasciando volutamente la storia contemporanea dell'Egitto, che ci porterebbe inevitabilmente a fare tutt'altre considerazioni, bisogna riconoscere che leggere di questo popolo appassiona, per la loro storia, la loro tradizione e la loro cultura. Pensate che la civiltà egizia si differenziava in modo consistente e strutturale da quella del resto dell'Oriente, dimostrando un'avanguardia di pensiero invidiabile. Non a caso si può tranquillamente valutare il grado di civiltà di un popolo andando ad analizzare all'interno dell'organizzazione sociale la condizione di vita delle donne. È risaputo che gli egiziani avevano un assoluto rispetto per le donne, alcune delle quali, ad esempio, occupavano anche alte cariche dello Stato. Gli studiosi non hanno potuto far altro che constatare che le donne al potere furono determinanti in tutta la storia dell'Egitto. Nell'antico Egitto era stato creato uno straordinario sistema giuridico in base al quale la donna e l'uomo erano uguali per legge e di fatto. Inoltre le donne, non essendo sottoposte o soggette ad alcuna tutela, usufruivano di un'assoluta autonomia. Possiamo dire che godevano di condizioni di vita decisamente superiori a quelle che si trovano a subire ancora oggi milioni di donne nel mondo e addirittura molte donne egizie raggiunsero anche i più alti gradi della gerarchia ecclesiastica. Non so, pensate cosa accadrebbe oggi se rivendicassimo noi la possibilità di avere, che so, un papa donna. Ma forse quello ecclesiastico è la parte di potere che meno ci interessa. Torniamo quindi all'Egitto. Le donne ebbero un ruolo fondamentale in tutta la storia dell'antico Egitto. Infatti furono visir, cioè alti funzionari pubblici, oppure scriba idut, proprietarie terriere o anche addette alla copiatura e alla stesura di testi ufficiali in quanto depositarie dei segreti della scrittura. Furono letterate, medici, imprenditrici, esperte di finanza, artigiane, eccetera, eccetera. Tutte queste figure furono personaggi straordinari che segnarono un percorso di ricchezza e splendore ancora oggi ineguagliati. Come si diceva prima, leggendo del popolo egiziano e soprattutto delle donne, si deve fare necessariamente attenzione a scremare dalla ricostruzione la sovrastruttura culturale di chi riporta la notizia, visto che la maggior parte dei libri sono stati scritti da uomini. Facciamo ora un breve esempio per facilità di comprensione. Nel libro Le donne dei faraoni di Christian Jacques, e già il titolo la dice lunga, scritto e fatto anche molto bene, capita di leggere tra le righe considerazioni personali che poco hanno a che fare con la realtà di chi si sta parlando. Questo accade solitamente quando, in particolar modo, ci si cimenta nel parlare della condizione delle donne. Riportiamo le testuali parole. Vai, Rosina. Le regine partecipavano di fatto al governo del paese. Lungi dall'essere delle first lady scialbe e senza consistenza, esse dovevano adempiere le funzioni di donne di Stato e venivano scelte in base alle loro attitudini a svolgere questo compito. È questa la ragione per cui i testi esaltano sia il loro senso dell'autorità sia la loro bellezza. Siamo lontani da un generico femminismo. Ciò che viene valorizzato e messo in pratica è il ruolo spirituale della donna, la sua partecipazione attiva alla creazione del pensiero. Una idea che si è persa col venire meno della istituzione faraonica, per cui si può parlare di regressione piuttosto che di progresso. E qui non si capisce bene se c'è l'abbia con le first lady o se sottolinea una difficoltà delle donne alla partecipazione attiva della creazione del pensiero. Non si comprende inoltre se attribuisce queste attitudini soltanto alle donne egiziane, se pensa che il venire meno della istituzione faraonica abbia decretato la fine di tali attitudini e che le donne in seguito non abbiano volutamente più dimostrato queste capacità. Inoltre sarebbe interessante capire perché parla di regressione piuttosto che di progresso, lasciando intendere che alle donne non è stato più permesso lavorare alla creazione del pensiero, o piuttosto che le donne invece attraverso il femminismo non siano state capaci di individuare le giuste rivendicazioni. Non c'è dato saperlo. Nella realtà non ci importa molto che cosa pensa Christian Jacques, volevamo soltanto sottolineare appunto ancora una volta quanto il pensiero dominante interferisca con la interpretazione degli eventi, degli accadimenti e della loro ricostruzione. Abbiamo sentito che nell'antico Egitto la condizione delle donne era avanzata, anzi avanzatissima rispetto alla civiltà attuale, ma nonostante questo le donne potevano essere regine ma non faraone. Bene, a questo punto possiamo davvero iniziare a parlare di questa donna straordinaria dell'antico Egitto che invece faraona fu davvero, Hatshepsut. Hacia la montaña cuando sale el sol, busca en el arco iris un nuevo color, no te conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor, él no tiene sendero pero es andador, no necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación. No es refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento. Inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Es el amor, una ventana abierta a la ilusión, es volar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación, es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Diversi anni fa, durante una visita guidata sull'antico Egitto a Palazzo Grassi a Venezia, la mia compagna Pina ha sentito per la prima volta parlare di Hatshepsut. Io non ero con lei quella volta, ma è tornata talmente tanto entusiasta che mi ha contagiato, soprattutto perché ho scoperto che quella donna, Hatshepsut appunto, è stata un faraone d'Egitto. Le donne che nella storia hanno conquistato il potere sono poche, anche se quasi tutte hanno lasciato un segno del loro passaggio, in un modo o nell'altro. Hatshepsut è stata una di queste. Per più di 20 anni sedette su un trono che era riservato solo agli uomini, anche se colui che le succedette dopo la sua morte tentò di cancellarne persino il ricordo. Sembrerebbe, e qui i pareri sono un po' contrastanti, che Hatshepsut sia stata l'unico faraone donna. Altri invece asseriscono che altre 4 donne furono nominate faraone, ma su una cosa però sono tutti d'accordo. Hatshepsut è senz'altro la più nota ed è anche uno dei faraoni più importanti nella storia dell'Egitto. Allora, un po' di storia su di lei. Hatshepsut crebbe nel palazzo del re e fu educata dagli scribi di corte. La sua ascesa al potere è legata alla dinastia di Tutmosi e stiamo parlando del 1524 avanti Cristo. Quando Tutmosi I morì, sua figlia Hatshepsut aveva circa 15-20 anni e, per tradizione, divenne sposa reale di Tutmosi II, destinato per discendenza a regnare, il quale però regnò pochissimi anni. Alla sua prematura morte, Tutmosi III era la figura designata a divenire il faraone, ma all'epoca della morte di Tutmosi II il suo successore aveva soltanto 5-6 anni, quindi non in grado di governare. Nel pieno rispetto delle tradizioni, si chiede alla sposa reale, Hatshepsut appunto, di assumere la reggenza per poi cedere il potere al faraone Tutmosi III non appena questi avesse acquisito le competenze necessarie per regnare. Altri invece asseriscono che Tutmosi I, dopo la morte dei suoi figli maschi, presentò alla corte sua figlia Hatshepsut e ne fece la sua erede dicendo: «Questa è mia figlia Hatshepsut, possa lei vivere. Io ho scelto lei come successore per il mio trono. Lei dirigerà il popolo in ogni parte del palazzo. Lei vi guiderà. Obbedite alle sue parole, unitevi al suo comando». Decretando con queste parole la promozione della figlia a faraone, re dell'Alto e del Basso Egitto. Questa nomina pare sia riportata anche in una iscrizione che si trova nel tempio funerario di Tutmosi I a Deir el-Bahari. Poco importano però ora le modalità della sua nomina, è rilevante sapere che comunque lei governò per certo per 20 lunghi anni e la sua autorità fu riconosciuta ed accettata da tutti. L'architetto Ineni, architetto che aveva contribuito con il padre di Hatshepsut ad ingrandire il tempio di Karnak, che forse molte conoscono, scrisse di lei: «Gestì gli affari dell'Egitto secondo i suoi piani», e ancora: «Lei era il cavo che serve a trainare il nord, il pilastro con il quale si ormeggia il sud. Era il frenello perfetto del timone, la sovrana che dà ordini, i cui eccellenti piani pacificano le due terre quando parla». Hatshepsut svolse una intensa attività edilizia in tutto l'Egitto. Al suo nome sono infatti legate opere grandiose sparse un po' su tutto il territorio. Tebe, tanto per dirne qualcuna, Ermontis, Komombo, El Kab, Kusae e Ermopoli. Inoltre, fra Karnak e Luxor, fece costruire delle piccole cappelle che dovevano servire da stazioni di approdo per la barca sacra durante le processioni. Fece anche costruire un enorme obelisco in un unico blocco di granito rosa, granito proveniente da Aswan, ben 317 tonnellate, che è ancora presente nel vicino tempio di Karnak, con il quale aveva la possibilità di ricevere, secondo la tradizione, la parola divina che le indicava cosa doveva fare. A lei si deve anche l'allargamento e la ristrutturazione di un piccolo santuario rupestre consacrato ad una dea leonessa di nome Paquette. La simbologia di questa ristrutturazione aveva chiari significati. La tradizione prevedeva che questo santuario fosse stato distrutto dall'occupante Hyksos, barbaro e profanatore. Quindi Hatshepsut, con il ripristino di quel santuario, affermò il suo potere liberando il luogo e, di fatto, cacciando l'occupante. Ma il suo potere, da tutti riconosciuto, fu da lei usato per ristabilire la pace e l'armonia in tutto il paese, facendosi garante della libertà ritrovata. Ma la cosa eccezionale fu che, per continuare a garantirla, si preoccupò del benessere morale e materiale del suo esercito che, se ben nutrito e considerato, avrebbe salvaguardato la libertà e lottato contro le forze delle tenebre. Hatshepsut fu certamente un buon faraone e durante il suo regno l'Egitto conobbe un periodo prospero e pacifico. Hatshepsut si adoperò per espandere il commercio egiziano, intraprendendo diverse esplorazioni e finanziando spedizioni commerciali, fra le quali la più importante fu un viaggio a Punt nella costa somala, che fece sì che il paese si avviasse al commercio dell'avorio, di bestiame particolare, di piante, di mirra, di incenso. E ricoprì anche, e questa è una cosa importantissima, la carica di divina adoratrice di Amon, che era appunto un ruolo molto molto alto nella gerarchia ecclesiastica. Nel suo regno fu un'epoca in cui la pace appunto regnava, l'esplorazione di paesi stranieri, l'espansione, la costruzione di edifici monumentali, il benessere economico trovarono un delicato equilibrio. Sotto tutti i punti di vista fu un modo nuovo di governare e sotto di lei appunto il paese prosperò. Insomma, fu una faraona, Hatshepsut, che ha governato con successo la civiltà più potente e più avanzata nel mondo per 20 anni, cosa che nessuna donna aveva mai fatto prima di lei e possiamo dire tranquillamente anche dopo di lei. Ci piace pensare che la grandiosità di Hatshepsut possa diventare un esempio in qualche modo da seguire, la sua vita e il suo operato possono dimostrarci una concreta possibilità di fare le cose, e perché no, magari anche diventando una icona molto lontana dalle icone, diciamo, odierne, come, non so, le Barbie o le veline che siano. Fu l'egittologo Pierre Monté a dichiarare che Hatshepsut fu una pioniera delle lotte per i diritti delle donne, segnando così l'inizio e predisponendo le basi per la fase successiva, quella in cui diventa più facile per tutte le altre seguirla. Su uno dei suoi obelischi la donna che fu faraone fece scrivere: «Coloro che vedranno i miei monumenti negli anni futuri parleranno di quanto io ho fatto». Purtroppo forse fu proprio questa la sua colpa più grande. Infatti, proprio per queste sue capacità dimostrate sul campo, le è toccato invece subire la damnatio memoriae, ossia la condanna esemplare che si impartiva ai nemici di Roma, quelli particolarmente odiati e dei quali si volevano eliminare le memorie destinate ai posteri. Questa procedura era frequente anche nell'antico Egitto. E il ricordo di Hatshepsut e del suo regno lungo e felice era pericoloso, rappresentava in qualche modo una minaccia al principio del dominio maschile, e quindi bisognava che Hatshepsut non fosse mai esistita, e si diede il via allo smantellamento di tutto ciò che lei costruì e realizzò. Il suo ricordo si perse, così come scomparve il suo mausoleo sotto tonnellate di sabbia. La storia però è sempre più forte, qualche volta, di chi cerca di manipolarla, ed è vero, il corpo mummificato della faraona non si è mai trovato, però il suo nome è tornato a risuonare in Egitto e a rimbalzare anche nel resto del mondo. Nel nostro piccolo, in questa trasmissione, anche noi la stiamo tenendo in vita e l'abbiamo ricordata. Told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of. Always, baby, and I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is, Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nello spazio autogestito da femministe e lesbiche, in onda ogni giovedì dalle 20 alle 23 sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. Potete contattarci durante la trasmissione allo 06 49 17 50 oppure con una mail a contatti@clrbp.it o visitando la nostra pagina Facebook clr.roma o anche attraverso il nostro sito, che ripetiamo è www.clrbp.it. Per finire con una lettera, modello cartaceo un po' obsoleto ma alcune lo preferiscono, indirizzando a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Allora, questa trasmissione su Hatshepsut è finita, il CLR vi dà appuntamento alla prossima puntata che ci sarà a marzo, però vi vogliamo lasciare dandovi due importanti appuntamenti che il CLR e il Kesbile hanno organizzato insieme. Uno è previsto per venerdì 3 febbraio alle 18, dove si presenterà il libro Over 60 Women, che è un'antologia di racconti e poesia a tematica LGBT, e ne parleremo insieme con Margherita Giacobino e Delia Vaccarello alla Sala Simonetta Tosi, Casa Internazionale delle Donne, ricordo, venerdì 3 febbraio alle ore 18. L'altra iniziativa che il CLR e il Kesbile hanno organizzato insieme è una seconda presentazione di un libro, però il giorno dopo, cioè sabato 4 febbraio, noi presenteremo l'ultimo libro di Margherita Giacobino dal titolo Il prezzo del sogno. E dalla quarta di copertina speriamo di far nascere in voi tutto l'interesse che merita. È un libro su Patricia Highsmith e dalla quarta di copertina citiamo: il suo mestiere era scrivere, socchiudere le porte del sogno e raccoglierne le voci. Ma scrivere, quest'ansia continua che è la sola medicina a se stessa, è una perenne fuga in avanti, verso il limite e oltre il limite. Bene, allora vi ricordo questi due appuntamenti, queste due meravigliose presentazioni di libri. La prima, il 3 febbraio, Over 60 Women, antologia di racconti e poesia a tematica lesbica. Il secondo, il giorno dopo, sabato 4 febbraio, sempre alle ore 18, Il prezzo del sogno di Margherita Giacobino. Tutte e due le presentazioni verranno fatte alla Sala Simonetta Tosi all'interno della Casa Internazionale delle Donne e, come sempre, l'ingresso è riservato alle sole donne. Allora, buon proseguimento e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.